mentre la notte di settembre camminava verso il mare, le sue stelle ti lasciavano dormire. Eri come quel gran cielo a San Lorenzo, quando solo le più belle decidono di partire. I libri aperti e sparsi in terra, come foglie di un ottobre freddo e spento, si lasciano cadere. E i primi raggi di quel sole che ti osservano in silenzio tutta nuda, si mettono a sedere. Quante lacrime avrai speso su quel letto, quante labbra avrai macchiato col rossetto poco prima del mattino. Discorsi in Piazza Verdi illuminavano il tuo viso di bambino, o forse era la luna, ma la tua strada continuava verso il buio di novembre, a cui lasciasti in mano la fortuna che passava le finestre nella notte di Natale. Ti cercava e tu scappavi, e nella stanza tu scacciavi quel pensiero, stringevi forte un sogno e poi ti addormentavi. Poi ti guardi nello specchio con quegli occhi, fai cadere la sigaretta dalla bocca poco prima del mattino. Tutti quanti, hai preso il tuo rumore, l'hai stretto dentro al cuore, ad ogni istante di autostrada si spegneva il tuo dolore, bisogno di avventura, intorno l'alba scura, i tuoi capelli sparpagliati sul sedile, la paura di non tornare indietro si allarga ad ogni metro, poi capisci che sei tu quella riflessa dentro al vetro. Magnifica distanza, l'Adriatica speranza all'improvviso ti compare, come se tutti i sentieri, come se tutte le strade raggiungessero lo stesso grande mare. Poi piangi, si scioglie il tuo mascara, alla porta al sole, venuto a consegnarti un'altra identica giornata, ma tu non fai il suo gioco, il tutto l'hai capito, sorridi e lasci andare. E ancora ricordi un po' distratto, ricordi da lontano quei giorni in cui